Giovedì 16 maggio del 2013, 87.900 la modulazione di frequenza, questa è Radio Onda Rossa. Dal 1977 senza padrini politici, senza padroni economici, la radio è di chi se la sente e chi se la sente può contribuire a farla vivere. Sottoscrivendo ad esempio sul numero di conto corrente postale 6180-4001 da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001 via De Volsci 56-00185 Roma, oppure consultando il sito internet della radio ondarossa.info. sulla homepage c'è l'opzione sostieni e troverà la modalità PayPal. Siamo quasi all'appuntamento con Visionari, il cinema, come ogni giovedì dalle 14 alle 15, e lo cominciamo con qualche minuto d'anticipo perché abbiamo molti ospiti, alcuni di questi sono anche in movimento, quindi non sappiamo se riusciamo a raggiungerli nel momento in cui c'eravamo prefissi oppure dobbiamo fare un po' a tentativi. Comunque, per comunicare con noi, intanto i dati sulla scaletta di quest'oggi li trovate sul sito internet della radio, alla voce trasmissioni Visionari ci sono gli ospiti della puntata, le uscite in sala di oggi giovedì 16 maggio, le nostre indicazioni, suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda il piccolo schermo e poi gli altri appuntamenti della settimana. In giro per l'Italia tra rassegne, festival e proiezioni. Il link per riascoltare la puntata precedente, quelle del 2013, anche dell'anno precedente, l'anno scorso, il 2012. Per comunicare con noi, vi dicevo, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Ho scoperto che di nuovo attivo il servizio per gli SMS in diretta, il numero è 342 357 4357, e poi oltre a seguirci in diretta radio sugli 87.900 in modulazione di frequenza, potete anche ascoltarci in streaming dal computer, sempre dalla home page c'è l'opzione ascolta la diretta. Il primo collegamento è con Paolo Pisanelli per quanto riguarda il nostro caro ospite, spesso lo sentiamo in qualità di regista qui in veste di co-regista della performance di Cineteatro Aquilane, di cui già ci aveva anticipato qualcosa un po' di tempo fa, al Gran Teatro Parco delle Arti a Monticchio in provincia dell'Aquila il 19 maggio, che è poi domenica. Paolo, ben ritrovato a Visionari su Onda Rossa. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, Aquilane, sì, all'Aquila, della stagione musicale della Società Barattelli, che ringraziamo per lo sforzo di mettere in piedi questo spettacolo che, insomma, è una prima assoluta che presentiamo lì, speriamo che poi possa girare. Aquilane, diciamo, rispetto alla mia esperienza di Utah Ramutu, del film documentario che è uscito nel 2010, è un po' una continuazione, no? Sì. Quello che è successo all'Aquila in questo periodo, dal punto di vista delle donne, ecco, delle aquilane, delle abitanti dell'Aquila. È un viaggio alla ricerca, diciamo, di una città e dei suoi abitanti dispersi tra i prefabbricati e tutte le strutture provvisorie. Quindi abitanti e in questo caso c'è donne che un po' si sono smarrite in questa città che purtroppo continua a essere al centro delle cronache per quanto riguarda la non ricostruzione. Sì. Poco tempo fa ci fu pure una festa di non ricostruzione proprio per segnalare questo spaesamento, il dolore di questa città che comunque insomma in qualche modo vuole rimettere al centro del discorso del proprio futuro, no? Di pensarlo questo futuro e di raccontarlo, ma raccontando anche però quella che è la situazione attuale, insomma, no? È un lavoro che è realizzato insieme ad Anima Ammersa, che è un collettivo di donne che attrici, danzatrici, c'è anche Officina Futuro qui, che è un progetto che hanno portato avanti, e che anche con loro io avevo già collaborato prima in Aiutarla Muto. Loro hanno fatto lo spettacolo Lettere dall'Aquila, che raccoglieva proprio le lettere alla città da parte degli abitanti. In questo caso è, diciamo, tutto uno sguardo più al femminile, e sono aquilane che aprono gli occhi e chiudono gli occhi, diciamo, su pensando a quello che vorrebbero, ecco, come vorrebbero anche che così cambiasse la situazione. Le trasformazioni che ci sono state, noi l'abbiamo detto tante volte, all'Aquila non c'è stato un terremoto, ce ne sono stati due. Uno è stato quello naturale, l'altro terremoto è stato un terremoto umano, un terremoto di scelte terribili, sbagliate, che hanno condannato un po' la città a rimanere immobile. La prima scelta assurda fu quella di portare lì il G8, che è stato un evento che ha congelato letteralmente la città, sì, per moltissimo tempo, sì, sì. In un'estate in cui invece veramente lì bisognava pensare a ricostruire e mettere recuperare tutto il patrimonio edilizio che era ancora recuperabile. Invece stando fermi più di un anno e mezzo e poi con condizioni atmosferiche come quelle dell'Aquila, dove acqua, neve hanno gonfiato i muri, ecco, poi ci ritroviamo a percorrere questa città cyborg, no? Una città veramente piena di tiranti d'acciaio, di impalcature, una città cantiere, però fermo, di cantieri che sì, poi non vanno avanti, sì, cantiere fermo un sì, po' quel presepe, diciamo, era stato voluto, diciamo, da Berlusconi e la Protezione Civile, che in qualche modo volevano dimostrare una grande efficienza operativa che poi, come sappiamo, non c'è stata, ma anzi è stata occasione di grandi arricchimenti da parte degli sciacalli che ridevano, e questo purtroppo è il lato oscuro non solo dell'Aquila, ma un po' di molte storie italiane. Paolo, come hai articolato il tuo lavoro? Perché è, insomma, una commistione di più linguaggi. Ecco, è proprio un intreccio tra cinema e teatro. Noi abbiamo, sì, chiamata, è una performance di cinema e teatro, e c'è tutta una partitura cinematografica, no? Che dura circa un'ora, e su questa però agiscono delle attrici che sono in scena, una danzatrice, e poi delle ombre che rappresentano di donne che sono un coro disperso, perché in pratica è una retroproiezione sullo schermo, e quindi, diciamo, la scena è animata sia da queste ombre che da queste presenze. E poi ci sono in scena anche due musicisti, Carlo Pelliccione, che è l'autore delle musiche, e poi come esecuzione anche, oltre a Carlo, Fabrizio De Melis, e poi c'è uno scultore sonoro che è Antonio De Luca, che anche lui aveva collaborato a Aiutarla Muto, con delle sculture diciamo molto, molto interessanti e molto particolari, dove suonano lastre d'acciaio, suonano dischi che sono sospesi. Quindi io credo che da questo punto di vista sia un esperimento molto, molto interessante, e che un po' rimette in gioco pure il fatto di, io sono un filmmaker, però in questo caso abbiamo lavorato proprio a cercare di comunicare anche attraverso il linguaggio teatrale, sì, e il linguaggio musicale. Paolo, in che ambito avete deciso di fare questa prima nazionale, cioè a Monticchio, in un gran teatro Parco delle Arti, e domenica 19? Sì, noi intanto ci saranno due spettacoli, alle 18 e alle 21, sì, e l'ambito è quello della società Aquilana dei Concerti, la Barattelli, che cura, che il cui direttore artistico è Guido Barbieri, è uno staff eccezionale che, insomma, si è mobilitato per cercare di risolvere anche tutti quelli che sono i problemi tecnici dell'Aquila, perché purtroppo a oggi, nonostante l'auditorium di Renzo Piano, nonostante altri spazi, sono tutti piccoli oppure enormi, e quindi diciamo non c'è ancora la possibilità di veramente di lavorare, di mettere in piedi uno spettacolo come andrebbe fatto. Mm-hmm. Questa è la stagione musicale organizzata dalla Società Aquilana dei Concerti, dalla Barattelli, ed è l'ultimo spettacolo di questa stagione musicale, che è anche in questo caso una produzione, perché sennò in altri casi magari vengono chiamati concerti, musicisti che portano in giro spettacoli che sono già diciamo realizzati, invece qui lo stiamo realizzando ad hoc per questa prima Aquilana. Senti Paolo, informazioni in rete per quanto riguarda questo progetto, per chi volesse saperne di più ce le puoi dare? Sì, a parte diciamo su Facebook Anima Immersa, Iuta Ramutu, su Cinema del Reale, ecco, ci stanno parecchie informazioni in proposito, e poi spero che insomma apriremo anche poi la pagina di Aquilane, una pagina a sé, che insomma in questo caso ci siamo appoggiati più su Big Sur, appunto Officina Visioni e Anima Immersa, che sono delle realtà che hanno prodotto lo spettacolo. Bene. Paolo, allora io ti auguro tutto il bene per quanto riguarda anche questo nuovo progetto, ci sentiamo per prossime novità. Grazie, questo progetto, volevo aggiungere solo questo, un po' rientra in un lavoro che, per quanto mi riguarda, in questo caso, in questo periodo io sto facendo anche Buongiorno Taranto. Esatto, poi ne parleremo a progetto un po' più avviato, insomma. È un discorso in cui io credo che noi filmmaker, oltre a fare così dei percorsi creativi quando realizziamo i film, siamo anche un po' sentinelle, no, per quanto riguarda i territori, i luoghi, perché aver girato all'Aquila 4 anni fa e girare ancora oggi è il tema del ritorno, no? Sì. E il fatto che uno si deve prendere cura anche dei luoghi, dei territori, e quindi in questo senso è anche un lavoro di impegno civile e politico che pensiamo che sia necessario. Certo. Che ogni cittadino italiano un po' ci deve mettere quello che sa e che può fare, eh? Noi facendo film, lavorando insomma in ambito teatrale, abbiamo cercato di metterci queste nostre esperienze, queste nostre capacità. Ed è sempre un piacere con te parlarne, per cui spero di sentirti proprio presto, Paolo. Un grazie. Abbraccio. Ciao caro. Ciao, un abbraccio a tutti gli ascoltatori visionari. Ciao, grazie. Ciao. Paolo Pisanelli, co-regista della performance di Cineteatro Aquilane al Gran Teatro Parco delle Arti a Monticchio, provincia dell'Aquila, domenica 19 maggio. Visionari su Radio Onda Rossa ogni giovedì dalle 14 alle 15. Davide Manuli, ma che piacere! Ciao Federico, come stai? Mi hai beccato, Ti ho beccato, ti ho beccato. Ho visto che c'era quest'uscita di Beckett del tuo film per distribuzione indipendente, ha detto ne riparliamo nuovamente, chiaramente. Assolutamente, certo. Guarda, allora inizio, dico subito due cose importanti. Sì. Allora, il film esce da domani con questa piccola distribuzione indipendente, e la cosa importante che ho capito in questi giorni dalla conferenza stampa ad oggi è che la gente ha capito anche su Facebook che il film esce, però ha della difficoltà a rintracciare le sale. Okay. Allora, la cosa veramente importante, premetto, allora, Beckett è un mio film del 2008 in concorso a Locarno, premio della critica indipendente, uscito nel 2009 e ripescato dal listino di distribuzione indipendente adesso, perché fanno un ripescaggio ogni anno come regola. L'anno scorso era Ero Spuglielli con Dorme, quest'anno io, e chissà chi sarà l'anno prossimo. Detto questo, Beckett è il primo capitolo, capitolo di un dittico che continua con il mio altro film che esce il 13 giugno, La leggenda di Caspar Hauser con Vincent Gallo, e sono un dittico, vanno proprio assieme su, diciamo, un dittico sulla solitudine, sul deserto, sul non senso dell'esistenza, sull'assurdità dell'esistenza umana. Ecco, ora io sto facendo proprio la promozione, però è importante che chi vuol conoscermi o conoscere Beck e tra un mese conoscere la leggenda di Caspar Hauser con Vincent Gallo, Fabrizio Gifuni, Silvia Calderoni Motus, Claudia Gerini, Elisa Sednaui, eccetera, Vitalik, eccetera, eccetera, è una bella occasione proprio per andare a conoscere il dittico così come era stato creato, no? Per vedere prima Beckett e tra un mese la leggenda di Caspar Hauser. Dove vedere Beckett? Sul sito di distribuzione indipendente www.distribuzioneindipendente.it. Dico questo perché anch'io non ho capito ancora dove e come esce. Bene, allora stando queste informazioni che ci hai appena dato, Davide, per chi ci ascolta e non sa bene di quest'opera e anche del tuo lavoro, diciamo che intanto noi ne avevamo parlato in più occasioni, sia per l'uscita a Locarno, per la presentazione a Locarno, che poi in più occasioni sia con Fabrizio Gifuni che con Frick Antoni in occasione di un concerto di Frick Antoni proprio per sostenere il ciclo degli artisti, esatto, sì. Qui a Roma, e tra l'altro nel cast c'è anche Paolo Rossi. Nasce questo film da un progetto che si era in qualche modo arenato sul doping nel ciclismo, e tu avendo esigenza di un lavoro, di filmare al minimo indispensabile, hai pensato a due attori nel nulla, e quindi il collegamento con Beckett, con Samuel Beckett, è venuto automatico. In questo film altri protagonisti oltre a quelli in carne ed ossa sono uno splendido paesaggio esardo e una splendida fotografia in bianco e nero di Tarek Ben Abdallah. Sì, tu conosci la storia e l'hai appena raccontata benissimo. Il film nasce, erano passati tanti anni dal mio primo lungometraggio Giro attorno al mondo, mi ero veramente arenato contro gli scogli del ministero, due anni con inutili e lunghi rinvii, audizioni, approfondimenti istruttori per una commedia sul doping. Diciamo che l'esperienza di quei due anni era così negativa sotto tutti i punti di vista, veramente traumatica, che mi sono ritrovato due anni più anziano, due anni dopo, ad avere veramente, veramente urgenza di fare qualcosa, perché poi erano passati, se già era passato parecchio tempo dal primo lungometraggio, erano passati altri due anni che secondo me non dovevano passare. Perciò diciamo che ho dovuto, essendo anche sceneggiatore, confrontarmi da scrittore con la pagina bianca, e l'idea proprio portante era stata quella: devo riempire questa pagina bianca con un film che deve costare 0,1, ecco, neanche uno. E l'idea, diciamo, nella mia testa è stata: come spendo 0,1 metto una persona nel deserto. Poi ho detto esagerato, se metto solo uno nel deserto per due ore non so cosa raccontare. Perciò ho messo un'altra figura nel deserto, sono diventati due. A quel punto il mio pensiero è stato: per chi è un film a 0,1? Non è per la grande distribuzione, non è per un film commerciale, è un film dichiaratamente per i festival, i grandi festival d'autore. Perciò a quel punto ho detto ok, ho messo a fuoco che devo avere due persone in deserto, che poi è stato il deserto sardo e non il deserto spagnolo, e grazie a Dio è stato il deserto sardo. E l'idea è stata, diciamo, meno male che conoscendo bene il lavoro di Samuel Beckett mi sono attaccato, diciamo, con la scusa di partire dove lui finiva, aspettando Godot. I due personaggi si sono stufati di aspettare Dio, che non arriva mai, e lo vanno a cercare a piedi facendo un road movie e incontrando strani personaggi, i quali hai citato: Gifuni, Paolo Rossi, Frick Antoni, Luciano Currelli, Jerome Durantoni, diciamo Simona Caramelli, tanti, pochi e tanti, diciamo, sparpagliati personaggi bizzarri. L'idea era quella di cercare di fare un film ricco di contenuti, e Samuel Beckett mi sembrava lo scrittore giusto. Sì, certo. Tra l'altro, nelle nostre conversazioni precedenti avevi proprio parlato di uno stato d'animo dell'opera becchettiana che ti interessava cogliere in un film solo, e questo mi sembra che è il messaggio più indicativo in questo senso. Guarda, io ti racconto un aneddoto, allora, che tra l'altro questo film non è un segreto neanche per la distribuzione. Il DVD di Minerva Raro Video, un DVD bellissimo, è fuori al 2009, ci ho mandato ancora fino all'anno prossimo, perciò diciamo che in contemporanea c'è sempre il DVD della Minerva acquistabile presso qualsiasi libreria di tutta Italia o su internet, e poi c'è il film in sala, cosa che consiglio di andarlo a vedere sul grande schermo. Certo. Negli insert del DVD c'è un'intervista che io andai a fare per il ventennale di Volterra Teatro al carcere di Volterra nel 2008 e a Rick Clusey. Rick Clusey è praticamente ancora vivente, è un detenuto del carcere di San Quentino negli anni 50 per ergastolo, nel quale in quel periodo Samuel Beckett andava dentro al carcere di San Quentino con la compagnia carceraria a provare i testi di finale di partita di Aspettando Godot prima ancora di editarli, per capire se funzionavano, faceva lui le regie. E Rick Clusey era il capo compagnia teatrale, attore e capo compagnia teatrale del carcere di San Quentino. Clusey poi, dopo 8 anni, è stato liberato per meriti artistici, per buona condotta, e ha iniziato a girare il mondo facendo l'attore, facendo Nastro di Crap, tutti i lavori di Beckett, con le regie proprio di Beckett, ha preso il testimone. Io ho incontrato Clusey a Volterra, gli ho fatto un'intervista, gli ho fatto vedere il film, e Clusey, vedendo diciamo il mio Beckett, mi ha detto: Samuel sarebbe stato entusiasta di questo lavoro. Ecco, diciamo che questa testimonianza sua, diretta e vivente, mi ha reso molto contento, perché, come hai detto tu, io non ho voluto raccontare Aspettando Godot, io ho voluto intitolare il film Beckett, perché Beckett, proprio il nome, il suono, proprio Beckett, Samuel Beckett, il suo nome, raccontano non solo una, due o tre pièce, un libro, ma uno stato d'animo, un umore nero, irlandese, molto divertente, molto ironico. Senti Davide, a parte che noi parleremo tra un mese, io già ti do appuntamento per l'uscita del tuo nuovo lavoro, però restando a questo, volevo chiederti anche com'è stato l'incontro con Distribuzione Indipendente e che ne pensi di questo progetto? Allora, io conosco, guarda, l'incontro può essere solo più ottimo, nel senso che io conosco due dei fondatori da anni di Distribuzione Indipendente, che sono Daniele Silipo e sì, Alessandra Sciamanna, che sono due personaggi stupendi, veramente due persone, grandi lavoratori, grandi appassionati, con grande dedizione, e niente, ci siamo conosciuti, frequentati, diciamo che ogni anno ci toccavamo più o meno per tanti motivi. Poi diciamo che quando è stata una mezza proposta mia e loro, ci siamo trovati in mezzo, nel senso che si parlava di Caspar Hauser e poi non si sa perché è saltato fuori il Beckett e a quel punto da parte loro era una cosa, diciamo, è buono, perché una piccola distribuzione, vedi, proprio anche molto piccola, che lavora su delle federazioni di sale molto minori, circoli arci, associazioni culturali, ex cinema, eccetera eccetera, per questo dico andate a vedere le sale su www.distribuzione.it, perché sono, come dire, belle, brutte o medio, quello che volete, però per esempio il film esce in tanti posti da domani, la settimana prossima a Pisa, a Rimini, esce a Gravina, a 3 posti in Puglia, a Roma, 4 sale, però non sono le solite sale, è inutile nasconderlo, perciò bisogna proprio andare sul sito a scoprire e metterle a fuoco se uno vuole vederle. Per quanto riguarda Fai conto, io è un lavoro difficile loro, io lo dicevo stamattina in un'altra intervista. Io sono molto contento, io non ho niente, un film, quando un film viene ripescato non ha niente da perdere, può essere solo che contento da un listino di anni precedenti. Detto questo, secondo me è vero anche che diciamo non è sufficiente che io dica o distribuzione indipendente dica che il film esce, perché la domanda ormai che c'è la legge già da qualche giorno è: ma dov'è? Ma dove esce? Ecco, ma come esce? Perciò diciamo che da domani, il 17, la scommessa, non più mia, ma girata a distribuzione indipendente, è che si rimbocchi le maniche e cerchi di fare un buon lavoro sostenendo proprio l'uscita del film. Perciò diciamo che tutto bene, ma da domani inizia il lavoro, ecco. Bene. Allora Davide, io ti abbraccio, ricordiamolo, da domani in sala Beckett senza la C e senza una T, B-E-K-E-T, e ti do appuntamento a fra un mese quando uscirà il Kasparhauser. Assolutamente, però guarda, ti dico un'ultima cosa perché ne approfitto. Anteprima, La leggenda di Kasparhauser con Vincent Gallo, Silvia Calderoni, Claudio Girini, Fabrizio Giuffoni, Elisa Sesnawi, Cinema Chuck, 12 giugno, ore 20:30, DJ set di Product, Fabio Cavo Sisti, Silvia Calderoni, 1000 persone dentro Cinema Chuck, 12 giugno, ore 20:30. Benissimo, t'abbraccio e a fra un po'. Ciao Davide. L'abbraccio, ciao. Davide Manuli, regista di Beckett, in uscita in sala con distribuzione indipendente domani 17 maggio. Con noi Giovanni Coda, regista del documentario Il Rosa Nudo, uscito in sala il 9 maggio scorso. Giovanni, benvenuto a Visionari su Onda Rossa. Grazie, buongiorno. Allora, è uscito in sala, intanto come sta andando, ti chiedo, visto che comunque si tratta di un'uscita indipendente e particolare. Sta andando molto bene. Ieri ha chiuso la sua settimana di programmazione, adesso vediamo un attimo di organizzare, appunto stiamo preparando un piano appunto distributivo che possa comunque essere, come si dice, adeguato alla tipologia di film appunto che abbiamo prodotto. Allora, e per chi ci ascolta, chiaramente parliamo di qual è l'argomento del Rosa Nudo. Sì, l'argomento del Rosa Nudo è praticamente è un lavoro fatto su questo libro che si chiama Moi Piercel, Deporté Homosexuel, ed è praticamente l'autobiografia di Piercel, un deportato omosessuale alsaziano nato nel 23, quindi all'epoca della deportazione aveva 17 anni, rilasciato a 21 anni, e praticamente dopo 30 anni praticamente questo signore ha fatto coming out, ha dichiarato pubblicamente perché appunto fu incarcerato, torturato, insomma silenziato in quel modo, e chiedendo appunto il riconoscimento di vittima dell'olocausto. Come hai deciso di raccontare questa storia, Giovanni? Ah, è una casualità, io cercavo su internet, stavo facendo dei lavori su internet di ricerca proprio del periodo, insomma, delle deportazioni, e sono capitato su alcune pagine, alcuni pezzi tradotti di questo libro, che appunto non è tradotto in italiano. Io l'ho comprato, poi alla fine l'ho comprato al Blue Book a Parigi nel 2007, poi l'ho comprato appunto ho preso la versione spagnola, l'abbiamo tradotta, e insomma siamo rimasti colpiti un po' dalla storia di questo uomo, che poi è riportato comunque come intervista anche nel documentario Paragrafo 175. Non so se avete idea appunto di quest'altro documento che c'è del 2000, mi pare sia un documentario tedesco. E poi abbiamo creato prima un'operazione teatrale che si chiama appunto Il Rosa Nudo, poi un'installazione fotografica con due collezioni fotografiche che hanno esordito a Barcellona qualche anno fa, e poi l'ultima parte di questa operazione appunto era il film, e così siamo poi riusciti a chiuderlo, insomma, in maniera adeguata, ecco. E rispetto al progetto prima teatrale e poi fotografico, come hai articolato invece il documentario? Vabbè, il film è proprio cinematografia sperimentale, è una fiction, si può dire, una commissione tra video arte e cinema di finzione, chiaramente. Sì. poi è composto in maniera particolare perché è completamente narrato, quindi non, in realtà gli attori fanno, formano dei quadri, e questi quadri appunto si muovono indipendentemente dalla narrazione. Mm-hmm. E poi appunto poi si arriva a un momento in cui tutto si congiunge con quello che viene raccontato, quindi le storie, perché poi abbiamo inserito nella sceneggiatura, ci sono inseriti altri passaggi appunto del periodo, sono Rudolf Ost dal suo diario, le sue considerazioni appunto sugli omosessuali, e le teorie di Vernet, quindi tutte le sperimentazioni mediche proprio fatte appunto sugli omosessuali, insomma usati come cavie, no? Quindi abbiamo fatto un lavoro, e questo lavoro appunto di ricostruzione appunto parte dalla vita di Selle e si chiude con lui. Chiaramente Selle è morto nel 2005 a Toulouse. Ecco, oltre... Ah, sì, scusami, t'ho interrotto. Sì, noi non siamo riusciti a conoscerlo, ecco. Abbiamo iniziato qualche anno dopo. Ecco, oltre alle torture e anche le sperimentazioni sugli omosessuali, ti volevo chiedere qual è il dato importante e fondamentale che esce da questa ricerca, anche da questa storia. Il dato importante è che comunque siamo riusciti in un modo o nell'altro a innanzitutto a non far morire proprio la memoria di Pierre Selle, tenendo conto che lui ormai non c'è più, è morto nel 2005. Jean Léviteau, che è il coautore e anche l'editore del libro, è morto qualche anno fa ed è stato uno dei più grossi attivisti LGBT europei, si chiama appunto Jean Léviteau. Quindi il dato è che abbiamo mantenuto comunque, ha dato, mettiamola così, l'immortalità mediatica un po' a questa storia, e soprattutto anche aperto, gettato una luce su un momento comunque per quanto riguarda la storia omosessuale che non è che tutti conoscano, ecco. Noi abbiamo trovato, anche vedendo in sala insomma la gente che è andata a vedere il film, oltretutto abbiamo ricevuto critiche positivissime, molti non avevano idea proprio che anche questo è successo comunque, che gli omosessuali, gli zingari, gli handicappati hanno avuto il loro olocausto, sì, in questo caso sì, l'omocausto come viene chiamato. Senti Giovanni, i lavori teatrali e fotografico continuano a seguire anche il lavoro, anche gli spostamenti del film, nel senso viaggiano insieme, è un progetto unitario? No, in questo momento film ha la priorità. Adesso stiamo organizzando un'operazione proprio commerciale a questo punto, che vedrà riunita insieme la parte fotografica la parte appunto filmica, quindi stiamo cercando di produrre un prodotto che sia appunto il DVD, insomma, insieme appunto al libro fotografico. Tra l'altro domani a Cagliari ci sarà un evento. Sì, domani a Cagliari, 17 maggio, nella sala conferenze della CGL, Camera del Lavoro di Cagliari, in Viale Monastir 17, l'ufficio Nuovi Diritti della CGL, celebra la giornata mondiale contro l'omofobia e la transfobia e appunto la recente uscita, appunto l'uscita negli schermi nel cinema del Rosanuto, permettono appunto viene usato come spunto dell'iniziativa, che ci dà modo di parlare appunto di una pagina orribile e semi nascosta, come ho detto prima, della storia del Novecento, appunto l'omocausto della Germania nazista. Interverranno Giulia Meda, Studio Garau, Antioco Floris, io e con coordinatore dei lavori Sandro Gallitu, che è il responsabile appunto della Nuovi Diritti. Giovanni, io ti ringrazio, è stato un piacere, a risentirci per le prossime novità. Vi ringrazio e grazie a voi per avermi chiamato e per aver dato spazio a questo piccolissimo film. Grazie. A presto, ciao Giovanni. Grazie, a presto a voi. Giovanni Coda, regista del documentario Il Rosa Nudo, uscito in sala lo scorso 9 maggio. Proseguiamo. In collegamento con Maria Coletti della Cineteca Nazionale per la rassegna L'isola che non c'è, l'odissea dei migranti tra il Mediterraneo e i centri di identificazione ed espulsione. che sarà al cinema Trevi a Roma, qui a Roma, il 17 maggio, quindi domani. Maria, intanto benvenuta a Visionari su Onda Rossa. Grazie a te Federico, buonasera a tutti. Ho visto che in programma ci sono diversi lavori documentari, per lo più che abbiamo ospitato a più riprese nella nostra trasmissione, ma parlaci un po' di questa giornata, Maria. Sì, grazie intanto per avermi dato questo spazio. È molto importante che anche un'istituzione culturale come la Cineteca Nazionale collabori diciamo, a questa iniziativa e a tutte le iniziative analoghe sul tema dei CIE e dei migranti. Non è la prima volta che tra l'altro diciamo ci occupiamo di questo, in particolare avevamo fatto una grande rassegna l'anno scorso proprio sul cinema di migrazione. Questa volta, sempre in collaborazione con l'Archivio delle Memorie Migranti e con Zalab, abbiamo voluto concentrarci proprio sul tema dei CIE, perché è uno delle questioni più urgenti in questo momento, insieme alla questione dello Ius Soli, riproponendo alcuni lavori documentari che avevamo mostrato, come Un uomo sulla terra di Andrea Segre, Dagmawi Imer e Soltanto il mare, sempre di Dagmawi Imer, ma riproponendo anche diciamo nuovi documentari sul tema. In particolare To Whom It May Concern di Zakaria Mohamed Ali, che ha una storia simile a quella di Dagmawi, anche lui un esule politico arrivato dalla Somalia, mentre Dagmawi dall'Etiopia, che come dire giornalista di base si è trovato a dover appunto attraversare il deserto, il mare e poi a crearsi una nuova vita qui da noi, anche di documentarista, di regista. E per chiudere poi alle 21 ci sarà invece la possibilità di vedere, per chi non l'avesse ancora visto, un lungometraggio, un documentario molto importante, Vol Special, del regista Fernand Melgar, che praticamente per la prima volta ci dà la possibilità di entrare all'interno di un CIE, in questo caso in Svizzera, e quindi di capire, come dire, più da vicino le dinamiche, come dire, alienanti e disumanizzanti che avvengono appunto all'interno dei CIE. Tra l'altro, mentre c'erano in corso d'opera le riprese, morì un migrante per maltrattamenti, insomma, della polizia, perché era stato legato troppo stretto, insomma. Sì, esatto, questa è una cosa che tra l'altro poi non voglio anticipare troppo, perché spero che veniate tutti a vederlo appunto al cinema Marvel Special, e diciamo viene fuori anche purtroppo uno di questi casi luttuosi, mortali, perché diciamo per far capire un po' meglio, quando si parla di voli speciali e di imbarchi costretti, parliamo veramente di costrizione totale, cioè persone che vengono legate mani e piedi, imbavagliate, tenute ferme anche alla testa, con pannolini perché appunto non possono muoversi, come dire, in queste condizioni disumane, partendo tra l'altro appunto ovviamente contro la propria volontà, ma semplicemente perché si è costretti a farlo. Tutto ciò anche in persone giovani può causare insomma, voglio dire, gravi conseguenze sul piano fisico oltre che psicologico. Maria, ci saranno anche ospiti gli autori o altri ospiti nel corso della giornata? Sì, sì, certo, anzi grazie per avermelo ricordato di dirlo. Prima della proiezione delle 9, alle 7 ci saranno due corti, In nome del popolo italiano di Gabriele Del Grande e Stefano Riberti e To Whom It May Concern appunto di Zakaria Mohamed Ali, ma sono due corti, quindi poi diciamo alle 7:30 entreremo subito nel vivo del dibattito e alla tavola rotonda parteciperanno oltre due registi, quindi Andrea Segre e Zakaria Mohamed Ali, anche Gabriella Guido per la campagna Lasciateci Entrare, Lula Tekle Haimanot, che è una mediatrice culturale che ha lavorato da vicino anche al centro per le donne che è ad Anguillara, Sandro Triulzi dell'Archivio Memorie Migranti e la giornalista Flor Murar Jovanovic, che tra l'altro è una, diciamo, ha intervistato e pubblicato qualche mese fa un'interessante intervista a Fernand Melgar proprio in occasione dell'uscita in Italia del film. Ricordo tra l'altro che questa distribuzione italiana è merito appunto di Zalab, soprattutto il Cinema Africa, che in qualche modo lo ha sostenuto, ed è importante perché è una distribuzione totalmente dal basso, a livello sociale, che sta girando fra appunto dalle scuole, università, i cinema che sono interessati, quindi chi volesse può andare sul sito di Zalab e chiedere altre proiezioni. È importante che questo film venga visto da tutti veramente, per capire cosa vuol dire, diciamo, cosa si nasconde dietro questa sigla così, che sembra così semplice come CIE. Bene, invece per quanto riguarda la rassegna al Cinema Trevi, basta andare sul sito internet della sala del Cinema Trevi? Sì, basta andare sul sito www.fondazionecsc.it e lì ci sono tutti i riferimenti al Cinema Trevi, la programmazione, anche le schede dei film. Per noi è molto importante, tra l'altro, che si parli di cinema e politica insieme, citando una bella intervista di Segre che ha rilasciato qualche anno fa, agli inizi della sua carriera. Forse lui diceva: in mezzo tra la politica e l'estetica c'è la realtà. E in effetti è quello che mi è sembrato giusto fare in questa serata, no? Partire dalla politica per arrivare all'estetica, ma in mezzo c'è la realtà, ci sono persone, non ci sono numeri. E diciamo, sono usciti tra l'altro proprio in questi giorni diversi resoconti sui costi disumani di queste politiche di contrasto all'immigrazione irregolare, che sono costi non solo disumani, non solo ovviamente per quanto riguarda la conseguenza sulla vita di migliaia di persone, ma anche perché poi sono costi che di fatto in questo momento di crisi sono veramente, diciamo, insostenibili. Si spendono milioni di euro per fare questi centri, per maltrattare, torturare, rinchiudere persone, quando magari se usati in diverso modo potrebbero servire magari a migliorare la situazione in alcuni paesi, o comunque a creare delle politiche veramente per l'accoglienza, per l'integrazione, per la convivenza soprattutto. Maria, io ti ringrazio. A questo punto spero di risentirti per le prossime iniziative, prossime rassegne, prossimi appuntamenti. Certo, continueremo comunque a tenere sempre uno spazio aperto al Cinema Trevi dedicato al documentario e anche ai registi del sud e del mondo. In particolare, se posso, rilancio due appuntamenti prossimi fra maggio e giugno. Il 31 maggio avremo con noi il regista italo-algerino Rashid Benaghi e il 16 giugno Teo Eshetu, che è uno dei pochi, diciamo, cineasti afrodiscendenti di origine italiana che si occupa di videoarte. Quindi benissimo. Spero di presentarvi anche queste altre rassegne. Presto Maria, ciao, ti ringrazio. Grazie Federico. Ciao. Maria Coletti della Cineteca Nazionale per la rassegna L'isola che non c'è, l'odissea dei migranti tra il Mediterraneo e i centri di identificazione ed espulsione, al Cinema Trevi qui a Roma domani 17 maggio. Siamo con Fabrizio Cattani per ascoltare dalla sua voce il progetto streamoff.tv. Fabrizio, ben ritrovato a Visionari su Onda Rossa. Grazie a voi e bentrovati. Mi è sembrata subito interessante questa notizia che mi è arrivata per mail. Allora, raccontaci un po' di questo progetto. Semplicemente nasce dalla constatazione del fatto che il cinema indipendente italiano ha sempre meno spazio nelle sale cinematografiche, e di conseguenza abbiamo voluto creare un'alternativa a questo spazio, visto che piano piano sta sempre affievolendosi, insomma sempre di più. Considera che nel 2012 sono stati prodotti 192 lungometraggi in Italia, senza parlare dei documentari, che è un capitolo a parte, e di questi 192 lunghi soltanto 97 sono usciti, quindi la metà praticamente non è uscita nelle sale, e di quei 97 io penso che quasi il 50% sia uscito con semplicemente una decina di copie, quindi come se non fosse nemmeno uscito. Certo. Allora, visto che appunto le multisale prediligono i blockbuster perché pensano soltanto al botteghino, questo comporta il fatto che il cinema indipendente italiano d'autore, siccome non porta certi incassi, venga messo da parte, e questo vuol dire far morire una cinematografia che invece secondo me ha tanto da dire e tanto da dare, perché ci sono stati degli esempi di film purtroppo male distribuiti o poco distribuiti l'anno scorso che meritavano invece una diffusione più ampia, perché posso fare l'esempio della BAO di l'appartamento d'Atene, Corpo Celeste, insomma ce ne sono tanti, sì, di film, sì, sì, che sì, all'estero hanno ricevuto grandi riconoscimenti, grandi premi, tanti anche che invece in Italia non hanno avuto una distribuzione adeguata. Come materialmente, come vi siete mossi allora? Materialmente abbiamo, insomma, intanto è nata l'idea di creare qualcosa, poi certo, grazie all'apporto di un'equipe di programmatori veramente molto in gamba, tra l'altro tutti giovanissimi, abbiamo cercato di creare un sito internet che fosse molto semplice, intuitivo e comunque forte, perché in effetti pensiamo, prevediamo di riempire il database con tanti lavori. E naturalmente poi abbiamo voluto anche un po' per attirare l'attenzione, un po' perché vogliamo promuovere i giovani autori italiani. All'interno del sito abbiamo creato anche un concorso per cortometraggi che si chiama Stream Short, dove questi giovani cineasti possono partecipare. Praticamente gli utenti avranno poi modo di votare e i 10 corti che avranno ricevuto più votazioni accederanno alla fase finale, dove c'è una giuria di grandi professionisti come Ermanno Olmi, Donatella Botti della Bianca Film, Edrun Schreff, che è una bravissima sceneggiatrice, Maurizio Zaccaro, un bravissimo regista, e Vincenzo Patrani Garcia, che è il direttore della rivista Taxi Drivers, giudicheranno questi corti e decreteranno il vincitore, che si porterà a casa una Canon 5D. Tu sai benissimo che oggi una 5D riesce addirittura a fare anche un film per il cinema, quindi sono un ottimo premio e anche un incentivo. Siamo partiti da poco, perché comunque il sito è online dal 10 di aprile scorso. Sì. Però abbiamo già un bel bouquet, tra l'altro film molto interessanti come In the Market di Lorenzo Lombardi, c'è cioè addirittura il mio, Maternity Blues, che, e poi ci sono diversi film, c'è un film molto bello, Sette Ottavi, che anche questo su una band, perché tra l'altro non sapevo io che durante il fascismo non soltanto i gay erano ghettizzati, ma addirittura i musicisti jazz. Quindi, sì, perché era musica nera, chiaramente. Sì. Comunque ci sono, insomma, stiamo prendendo adesso i contatti con tanti registi per appunto uploadare questi film, ma in realtà vuole essere uno spazio, appunto, come ti dicevo, per i registi e le produzioni indipendenti che non hanno modo di arrivare ad un pubblico, e per il pubblico di riuscire a trovare almeno online film che non potrebbe riuscire a trovare nelle sale cinematografiche. Al momento su quanti titoli contate? No, per adesso siamo pochi, siamo una ventina di titoli di film, più, okay. Poi c'è anche una sezione di cinema ritrovato, dove abbiamo voluto inserire dei film di ogni genere, che fanno parte un po' della storia del cinema italiano, e che comunque non sono quasi introvabili. Ci sono anche dei film di Olmi all'interno, però consideriamo speriamo di aumentare il numero, anche dei documentari poi, certo, adesso, certo. Adesso di documentari abbiamo soltanto 4, però ti ripeto, siamo appena nati, quindi vediamo, insomma. Però insomma gli autori possono tranquillamente disporre, insomma, della vostra piattaforma per far visionare i propri lavori. Sì, per loro tra l'altro può essere anche un piccolo introito, anziché tenere appunto il film nel cassetto, a parte arrivare a un pubblico finalmente, cosa che appunto non si potrebbe. E in più loro comunque hanno un piccolo guadagno sulle visioni dei film, perché i film costano, tra l'altro siamo i più economici del web, perché ci sono altri siti come il nostro, più importanti, forse hanno anche film internazionali, però a livello economico sono i più economici, perché i nostri costano 1,50 € a visione per i film con modalità, cioè con la qualità standard, e 2,50 € per i film in visione in HD. Mm-hmm. Quindi sono 2 caffè, 3 caffè, per vedersi un film, il costo di 3 caffè. Bene. Per vedere un film in HD. Fabrizio, a questo punto ci sentiamo più in là per sapere anche questo progetto come sta andando. Assolutamente, quando volete possiamo, va bene, parlarne. Allora, ricordiamolo, streamoff.tv, grazie a Fabrizio Cattani, a risentirci alla prossima. Grazie a voi, a presto. Ciao. Ciao. Visionari su Onda Rossa, i contatti, l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info per gli sms in diretta, il numero è 342-357-4357. Andrea Paco Mariani per parlare con lui di distribuzione dal basso, dopo la produzione dal basso, un nuovo progetto. Andrea, intanto ben ritrovato su queste frequenze. Buongiorno a tutti. Allora, noi ci eravamo anche incontrati ad un piccolo incontro sulla distribuzione indipendente al Nuovo Cinema Aquila la scorsa settimana nell'ambito del Festival Terre, e sono uscite fuori diverse cose interessanti, e si parlava anche di questa nuova piattaforma che è attiva da circa un mese, vero Andrea? Sì, esattamente. Sì. Allora, raccontaci tutto un po' il percorso brevemente che va da produzione dal basso a distribuzione dal basso. Sì, esatto. Noi con il nostro collettivo video qui a Bologna, che si chiama SMK Video Factory, abbiamo sperimentato nel corso degli ultimi 3 anni e mezzo una serie di esperimenti di autoproduzione, legandoci indissolubilmente al portale di crowdfunding di produzioni dal basso. Sono stati tutti esperimenti non solo riusciti, ma anche che hanno determinato una serie di ragionamenti anche di natura sia produttiva che anche politica in qualche maniera, nel senso che abbiamo ragionato molto, soprattutto con l'esperimento zero che fu Tomorrow's Land, questo documentario sulla Palestina realizzato 2 anni fa, sul potenziale di queste nuove formule di produzione che in qualche maniera cercavano di dare una struttura razionale al concetto di autoproduzione che comunque sentivamo già nostro anche prima, e tra l'altro tutto questo facendo in modo che il grado di indipendenza nei progetti di documentario, di inchiesta che realizzavamo fosse completo al 100%. E con Tomorrow's Land in particolare abbiamo poi sperimentato in maniera autonoma, svincolati da qualsiasi distributore, pratiche di autodistribuzione appunto con una rete di spazi culturali, centri culturali, sale d'essè, centri sociali, per distribuire con delle formule molto particolari il lavoro che fecimo ai tempi. Da quell'esperienza, che è stata decisamente positiva e che a 1 anno e mezzo di distanza possiamo decisamente ritenere un risultato ottimo, abbiamo valutato gradualmente di arrivare all'idea di distribuzioni dal basso. Distribuzioni dal basso appunto è un portale, lo trovate su distribuzionedalbasso.com, che cerca di rendere stabilizzato e di stimolare l'incontro tra utenti da un lato in rete, ma anche con centri culturali e quant'altro per delle proiezioni pubbliche, di una serie di documentari e film realizzati non solo da noi in questo caso, ma abbiamo cercato di donare alla collettività un meccanismo di autodistribuzione che noi avevamo sperimentato sulla nostra pelle, soprattutto nell'ottica di aiutare adesso magari delle giovani realtà nate subito dopo di noi o nate di recente che hanno inevitabilmente delle grosse difficoltà. Quindi il portale, che attualmente conta 15 titoli ma che appunto stanno piano piano crescendo gradatamente, cerca appunto di stimolare la distribuzione di questi lavori sia in rete sia in modalità offline all'interno di proiezioni. C'è anche da aggiungere una cosa che è una nota fondamentale: noi ci sentiamo parte di quel sommovimento che piano piano sta crescendo anche in Italia, che non solo vede nel crowdfunding, nelle coproduzioni il proprio sfogo, ma anche nelle licenze Creative Commons. Quindi sì, tutto sì, il materiale che viene inserito in questa libreria digitale è esclusivamente licenziato in Creative Commons, e questa anche è una scelta di politica redazionale che riteniamo centrale al progetto. Tra l'altro la formula che molti hanno escogitato dei film evento, in cui gli autori portano in giro per tutto il territorio nazionale i propri lavori e ci sono delle proiezioni accompagnate dall'incontro con il pubblico, mi sembra che sia una formula che si stia piuttosto diffondendo, e mi sembra anche molto utile e interessante. Sì, assolutamente, anche perché non dimentichiamo che tutto questo, e noi ci teniamo sempre a sottolinearlo, nasce anche da un'esigenza che è spesso un'esigenza generazionale, nel senso che questi sono meccanismi ovviamente a disposizione di tutti, però è chiaro che si sta rivelando una percentuale molto alta il fatto che siano soprattutto appunto giovani freelance e giovani collettivi di videomaker che usano questi meccanismi. Io aggiungo il fatto che è molto probabile, se non certo, almeno nella nostra storia del nostro gruppo è così, che tutto questo nasce dall'esigenza di trovare delle formule nuove, perché quelle classiche sono inevitabilmente andate in crisi. E da questo punto di vista anche un altro aspetto credo sia importante sottolineare, anche rispetto alla filosofia che sta dietro a questo portale. Chiaramente uno scambio, cioè la questione dello scambio economico rimane, perché comunque serve per fare in modo che il sito sia sostenibile, e contemporaneamente per dare appunto la possibilità a questi giovani registi di sopravvivere, di portare avanti altri progetti. Ma la cosa che noi utilizziamo, che è stato appunto utilizzato sempre durante i nostri esperimenti e che crediamo essere anche un'evoluzione del concetto di crowdfunding, è che si basa tutto su un meccanismo di donazioni. Questo perché? Perché crediamo sia molto utile sperimentare delle formule di rapporti economici nuove che possano fare in modo che si creino dei meccanismi virtuosi, che si basano fondamentalmente su il concetto del dono da un lato e dall'altra parte su meccanismi di responsabilizzazione e di contatto con gli utenti che entrano in contatto col sito. Perché noi crediamo, e ce ne stiamo rendendo conto mano a mano che il progetto cresce, che la prima cosa importante è spiegare le ragioni di un progetto e spiegare quale sostenibilità debba avere. Ed è lo stesso meccanismo, se ci pensate, che avviene nelle piattaforme di crowdfunding, perlomeno quelle che riteniamo più vicine a noi come produzione dal basso. Tu presenti un progetto, spieghi con anche una modalità di trasparenza che è centrale perché lo vuoi fare, con che tempi lo vuoi fare, qual è l'idea che vuoi sviluppare e qual è anche il budget che serve per realizzarlo. E credo che questo, se innestato con dei momenti anche di dialogo tra i coproduttori, i co-distributori e gli autori, crei, perché sta già avvenendo, dei meccanismi virtuosi interessantissimi. Andrea, quali sono i criteri per la scelta dei titoli che metterete su distribuzione dal basso, a cui metterete a disposizione la vostra piattaforma? Sì, allora ecco appunto come giustamente si desume anche dalla tua domanda, la differenza sostanziale in termini di strutturazione tra produzione dal basso e distribuzione dal basso è che produzione dal basso ha una politica redazionale orizzontale, per cui tutti sono liberi, salvo appunto alcune eccezioni, di presentare progetti. Certo. Su distribuzione dal basso abbiamo fatto una scelta diversa, che è giusto ammettere, cioè c'è una redazione che valuta cosa può entrare e cosa no. Noi abbiamo cercato di stare molto attenti a quello che era la policy del sito, anche su suggerimento degli amici di produzione dal basso, perché giustamente devi spiegare, sempre per quel, tornando a quel discorso anche di comunicazione chiara e trasparente, sì. Le ragioni che ti spingono a. Quindi da questo punto di vista ci sono dei vincoli pratici e dei vincoli redazionali. Quelli pratici, come vi accennavo prima, sono principalmente legati alle licenze Creative Commons, cioè la scelta politica è proprio quella di utilizzare solo materiale registrato in Creative Commons. Bene. Dal punto di vista invece redazionale sono scelte appunto che vanno in direzione di scelte redazionali, dove obiettivamente noi abbiamo semplicemente messo dei paletti che noi consideriamo necessari, che sono appunto paletti come l'antirazzismo, l'antifascismo, l'antisessismo. Quindi se reputiamo che un lavoro viola questi vincoli, chiaramente non ce la sentiamo e rifiutiamo. Certo. Il progetto. Certo. E poi tutti i lavori vengono divisi, anche per essere in qualche maniera usufruiti in maniera comoda e fluida nel sito, per macro categorie, che abbiamo 7-8 sezioni diverse per tipologia, e ovviamente anche con un sistema di tag e di ricerca interna al sito, perché adesso per ora sono solo 15 titoli, ma come dicevo prima il trend è molto in crescita, quindi c'è anche la necessità di una struttura che sia fruibile. Bene. Andrea, in chiusura ci dai riferimenti per chi fosse interessato, e poi chiaramente ci sentiremo prossimamente per le novità. Certamente, allora il sito, come dicevi, è già online da quasi un mese, si chiama appunto distribuzionidalbasso.com. Poi c'è un contatto mail che è info@distribuzionidalbasso.com, e sul sito, nelle box in alto, nei tasti in cima al sito, ci sono una serie di pulsanti che possono anche aiutare a comprendere meglio la natura del sito, come appunto il come funziona diviso per FAQ, che spiegano precisamente tutti i dettagli, e un altro tasto molto importante che è proponi il tuo film, perché ovviamente il nostro obiettivo in questa fase è non solo in qualche maniera incontrare utenti e gruppi che siano interessati a visionare e a usufruire di questo servizio di sito, però anche appunto intercettare e conoscere altre realtà che come noi piano piano stanno costruendo un'alternativa al mercato cinematografico in questo paese. Bene, Andrea, è stato un piacere e ci sentiamo presto. Grazie a voi, a presto, ciao. Buon lavoro. Ciao ciao. Ciao. Andrea Paco Mariani sul progetto distribuzione dal basso, qui lo studio si riempie e dovremmo avere un ultimo collegamento. Niente da fare, doveva essere Mario Sesti, del quale esce il documentario Fiamme di Gadda, a spasso con l'ingegnere, il martedì prossimo 21 maggio, ma a questo punto ne parliamo con lui due giorni dopo, il prossimo Visionari di giovedì 23. È tutto per quanto riguarda Visionari, l'appuntamento chiaramente è per giovedì prossimo, sempre dalle 14 alle 15, l'indirizzo di posta elettronica visionari@andarossa.info, per gli sms in diretta il numero 342 357 4357, oltre a seguirci in diretta sugli 87 900 in modulazione di frequenza c'è anche l'opzione in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page c'è l'opzione ascolta la diretta.